Terzo Anello ad alta voce, in collaborazione con l'Istituto Centrale per i Beni Sonori ed Audiovisivi. Alba Rohrwacher legge Il Mago di Oz di Frank Baum. Traduzione di Sara Sollors. Dorothy versò molte lacrime, perduta la speranza di ritornare in Kansas. Ma avendoci ripensato bene, non le rincresceva poi tanto di non essere partita in mongolfiera. Le dispiaceva molto di aver perso Oz, e dispiaceva anche ai suoi compagni. L'uomo di latta venne da lei e disse: «Sarei veramente un ingrato se non sentissi la mancanza dell'uomo a cui devo il mio delizioso cuore. Desidererei piangere un po' perché Oz non c'è più. Se tu gentilmente mi asciugassi le lacrime per evitare che mi arrugginisca». «Con piacere», rispose lei, e andò a prendere un asciugamano. L'uomo di latta pianse per parecchi minuti, e lei stava attenta che le lacrime non le sfuggissero e le asciugava con l'asciugamano. Una volta finito, la ringraziò calorosamente e con la sua boccetta argentata si passò l'olio dappertutto per andare sul sicuro. Lo spaventapasseri era diventato il re della città smeralda e anche se non era un mago, tutti erano fieri di lui. Perché, dicevano, non c'è altra città al mondo con un re impagliato. E per quanto ne sapevano, era vero. Il mattino dopo la partenza di Oz, i quattro viaggiatori si consultarono nella sala del trono per decidere il da farsi. Lo spaventapasseri stava seduto sul trono e gli altri in piedi davanti a lui. «Non ci va poi troppo male», disse il nuovo re, «perché il palazzo e la città smeralda sono nostri e possiamo fare ciò che vogliamo. Quando penso che non molto tempo fa ero su un palo in un campo di grano e adesso sono il re di questa bellissima città, non ho proprio di che lamentarmi». «Neanch'io», disse l'uomo di latta. «Sono più che soddisfatto del mio nuovo cuore e, a dire il vero, è l'unica cosa che desiderassi davvero. Per quanto mi riguarda, mi accontento di sapere di non essere meno coraggioso delle altre bestie, se non di più», disse modestamente il leone. «Se solo Dorothy si accontentasse di vivere nella città smeralda», continuò lo spaventapasseri, «potremmo vivere tutti qui, insieme, felici e contenti». «Ma io non voglio vivere qui», esclamò Dorothy. «Voglio tornare in Kansas a vivere con la zia Em e lo zio Henry». «Beh, in tal caso cosa si fa?» domandò l'uomo di latta. Lo spaventapasseri decise di pensarci e si concentrò tanto nei suoi pensieri che gli spilli e gli aghi iniziarono a uscirgli dalla testa. Infine disse: «Perché non chiamare le scimmie alate e farti trasportare da loro oltre il deserto?» «Non ci avevo mai pensato», disse con entusiasmo Dorothy. «È la soluzione ideale. Vado subito a prendere il cappello dorato». Lo portò nella sala del trono e pronunciò la formula magica e dopo poco il gruppo di scimmie alate entrò attraverso la finestra aperta e le si schierò attorno. «Questa è la seconda volta che ci chiami», disse il re scimmia facendole un inchino. «Cosa desideri?» «Voglio che voliate in Kansas con me», disse Dorothy, ma il re scimmia scosse il capo. «Non si può fare», disse. «Noi apparteniamo a questo paese e non possiamo lasciarlo. Non c'è mai stata una sola scimmia alata in Kansas e non penso che ce ne saranno mai perché non sono di casa lì. Saremmo lieti di aiutarti in qualsiasi modo ci sia possibile, ma non possiamo attraversare il deserto. Addio. E facendo un altro inchino, il re scimmia allargò le ali e volò via attraverso la finestra aperta, seguito dal suo gruppo. Dorothy era sull'orlo delle lacrime. «Ho sprecato la magia del cappello dorato per niente», disse, «perché le scimmie alate non possono aiutarmi». «È veramente terribile», disse l'uomo di latta che aveva un cuore tenero. Lo spaventapasseri stava di nuovo pensando e la sua testa si era gonfiata tanto che Dorothy temeva potesse esplodere. «Chiamiamo il soldato dai baffi verdi», disse, «e domandiamo il suo parere». Chiamato il soldato, questi entrò timidamente nella sala del trono, perché mentre Oz era in vita non gli era mai stato permesso di varcarne la soglia. «Questa ragazzina», disse lo spaventapasseri al soldato, «vuole attraversare il deserto. Come si fa?» «Non saprei dire», rispose il soldato, «perché nessuno, a parte Oz, l'ha mai attraversato». «Non c'è qualcuno che mi possa aiutare?» chiese Dorothy con passione. «Potrebbe farlo Glinda», suggerì lui. «Chi è Glinda?» domandò lo spaventapasseri. «La strega del sud. È la più potente di tutte le streghe e regna sui quadrumpoli. Il suo castello, tra l'altro, è al confine del deserto, quindi potrebbe sapere come attraversarlo». «Glinda è una strega buona, vero?» domandò la bambina. «I quadrumpoli pensano che lo sia», disse il soldato, «ed è gentile con tutti. Ho sentito dire che Glinda sia una donna molto bella e sa mantenersi giovane anche se ha vissuto per molto tempo». «Come si arriva al suo castello?» domandò Dorothy. «La strada è dritta, verso sud», rispose. «Ma si dice sia piena di insidie per chi la percorre. Ci sono bestie selvagge nella foresta e una strana razza di uomini a cui non piace che degli stranieri attraversino la loro terra. Per questo i quadrumpoli non vengono mai nella città smeralda». Poi il soldato se ne andò e lo spaventapasseri disse: «Sembra che, nonostante i pericoli, per Dorothy la cosa migliore sia andare nella terra del sud e chiedere a Glinda di aiutarla. Perché, naturalmente, se resta qui, Dorothy non tornerà mai in Kansas». «Deve aver pensato ancora», osservò l'uomo di latta. «Eh già», disse lo spaventapasseri. «Io andrò con Dorothy», dichiarò il leone. «Perché non ce la faccio più a stare in questa città e mi mancano la foresta e la campagna. In realtà sono una bestia selvatica, sai? E poi Dorothy avrà bisogno di qualcuno che la protegga». «Questo è vero», disse l'uomo di latta. «La mia ascia potrebbe esserle utile, quindi andrò anch'io nella terra del sud». «Quando partiamo?» chiese lo spaventapasseri. «Vieni anche tu?» domandarono sorpresi. «Certamente», Se non fosse stato per Dorothy, non avrei mai avuto un cervello. Mi ha tolto dal palo nel campo di grano e mi ha portato nella città smeralda. Quindi devo a lei tutta la mia buona sorte e non la lascerò finché non sarò sicuro che stia partendo per il Kansas. Grazie, disse Dorothy riconoscente. Siete tutti molto gentili, ma dovrei partire il prima possibile. Partiremo domani mattina, rispose lo spaventapasseri. Andiamo dunque a prepararci, perché sarà un lungo viaggio. When I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom, let it be. And in my hour of darkness, she is standing right in front of me, speaking words of wisdom, let it be. Let it be, let it be, let it be, let it be. Whisper words of wisdom, let it be. And when the broken-hearted people living in the world agree, there will be an answer, let it be. For though they may be parted, there is still a chance that they will see. There will be an answer, let it be. Il mattino seguente, Dorothy diede un bacio d'addio alla bella ragazza verde e strinsero tutti la mano al soldato dai baffi verdi, il quale li aveva accompagnati fino al cancello. Quando il guardiano dei cancelli li rivide, si meravigliò di sapere che lasciavano la fantastica città per mettersi di nuovo nei guai. Ma tolse subito il lucchetto dai loro occhiali, li rimise nello scatolone verde e gli augurò tanta buona fortuna. «Ora sei il nostro re», disse allo spaventapasseri, «quindi devi tornare da noi il prima possibile». «Se potrò, lo farò», rispose lo spaventapasseri, «ma prima devo aiutare Dorothy a tornare a casa». Mentre salutava per l'ultima volta il buon guardiano, Dorothy disse, «mi hanno trattato bene nella tua graziosa città e sono stati tutti molto gentili. Non so nemmeno dirti quanto mi ha fatto piacere». «Non provarci nemmeno, cara», rispose. «Ci piacerebbe tenerti con noi, ma se proprio vuoi tornare in Kansas, ti auguro di riuscirci». Detto questo, aprì il cancello delle mura esterne ed essi uscirono iniziando il loro viaggio. Il sole era già alto quando i nostri amici si incamminarono verso la terra del sud. Erano tutti di ottimo umore, ridevano e chiacchieravano. Dorothy, ancora una volta, pensava di aver trovato il modo di tornare a casa e lo spaventapasseri e l'uomo di latta erano felici di poterla aiutare. Il leone, dal canto suo, annusava l'aria fresca e faceva dondolare la coda per la gioia di trovarsi di nuovo in campagna, mentre Toto, abbaiando allegro, correva all'intorno inseguendo farfalle e falene. «La vita di città non fa per me», osservò il leone, mentre camminavano di buon passo. «I muscoli mi si sono inflacciditi e non vedo l'ora di mostrare alle altre bestie quanto sono diventato coraggioso». Si girarono a guardare un'ultima volta la città smeralda. Da dove erano ora, si vedevano soltanto tante torri e campanili oltre le mura verdi, e molto più in alto le cuspidi e le cupole del palazzo di Oz. «Oz non era un mago così terribile, dopo tutto», disse l'uomo di latta, sentendo il cuore battergli nel petto. «Ha saputo darmi un cervello, e un ottimo cervello, oltretutto», disse lo spaventapasseri. «Se Oz avesse preso la stessa dose di coraggio che ha dato a me», aggiunse il leone, «sarebbe stato un uomo davvero coraggioso». Dorothy non disse nulla. Oz non aveva mantenuto la sua promessa, ma aveva fatto del suo meglio, quindi lo perdonava. Come diceva lui stesso, era un brav'uomo, anche se un pessimo mago. Here I stand, head in hand, turn my face to the wall. If she's gone, I can't go on, feeling 2 foot small. Everywhere people stare, each and every day. I can see them laugh at me, and I hear them say, hey, you've got to hide your love away. Hey, you've got to hide your love away. How can I even try? I can never win. She saved me, love will find a way. Gather round all you clowns, let me hear you say, hey, you've got to hide your love away. Hey, you've got to hide your love away. Il primo giorno attraversarono i campi verdi con fiori dai colori sgargianti che circondavano la città smeralda. Dormirono sull'erba quella notte, sotto le stelle, e si svegliarono molto riposati. Il mattino camminarono finché non giunsero a un bosco fitto. Non c'era modo di evitarlo, perché sembrava estendersi fino all'orizzonte, sia a destra che a manca. E, inoltre, non volevano cambiare direzione perché avevano paura di perdersi. Così cercarono un varco per entrare nella foresta. Lo spaventapasseri, il primo in fila, trovò un albero con dei rami abbastanza radi da permettere alla compagnia di passarci sotto. Così si avvicinò, ma appena gli fu sotto, i primi rami si piegarono e gli si attorcigliarono intorno, e in men che non si dica l'avevano sollevato da terra e scaraventato indietro tra i suoi amici. Lo spaventapasseri non si fece male, ma ne fu sorpreso, e quando Dorothy lo rimise in piedi, gli girava un po' la testa. «Qui c'è un'altra apertura», disse il leone. «Fai entrare prima me», disse lo spaventapasseri, «perché non mi succede niente se mi sbattono di qua e di là. Mentre parlava, si avvicinò all'albero, ma anche stavolta i rami lo presero e lo ributtarono indietro. «Che strano!» esclamò Dorothy. «Cosa facciamo?» «Gli alberi sembrano bellicosi e decisi a impedirci di proseguire», osservò il leone. «Tenterò io», disse l'uomo di latta, e prendendo in mano l'ascia si avvicinò al primo albero che aveva maltrattato lo spaventapasseri. Quando un grosso ramo si piegò per prenderlo, l'uomo di latta lo colpì con una tale forza che lo spaccò in due. L'albero iniziò a tremare come travolto dal dolore e l'uomo di latta lo superò senza problemi. «Muovetevi!» urlò agli altri. «Veloci!» With another man, that's the end, little girl. Let this be a sermon, I mean everything I said, baby. Run for your life if you can, little girl. Hide your head in the sand, little girl. I'll catch you with another man. That's the end, little girl. I'd rather see you dead, little girl, than to be with another man. You better keep your head, little girl, or you won't know where I am. You better run for your life if you can, little girl. Your head in the sand, little girl. Catch you with another man. That's the end, little girl. Si misero tutti a correre e superarono l'albero senza problemi, ad eccezione di Toto che venne preso da un rametto e scosso finché non ululò. Ma l'uomo di latta tagliò subito via il rametto e liberò il cagnolino. Gli altri alberi della foresta non fecero nulla per trattenerli, quindi conclusero che soltanto quelli verso l'esterno erano in grado di piegare i loro rami e che probabilmente erano i poliziotti della foresta, dotati di questo meraviglioso potere allo scopo di allontanare gli intrusi. I quattro viaggiatori attraversarono l'intera foresta senza fatica. Poi, uscitine, furono sorpresi di trovarsi davanti un'alta muraglia che sembrava essere di porcellana bianca. Era liscia, come la superficie di un piatto, e più alta delle loro teste. «Adesso cosa si fa?» domandò Dorothy. «Costruirò una scala», disse l'uomo di latta, «perché dobbiamo scavalcare quel muro». Alba Rohrwacher ha letto Il Mago di Oz di Frank Baum. Realizzazione tecnica di Lorenzo Greco, a cura di Fabiana Carobolante e Anna Antonelli con Lorenzo Pavolini. Il terzo anello @rai.it. L'elenco dei brani musicali si trova alla pagina di Ad Alta Voce nel sito radio3.rai.it. Per scaricare questo programma radio3pod.rai.it.